Se i vent'anni ti minacciano, Esterina, porta qualche filo d'erba a torcere anche a me, ed io seria e pronta m'inchinerò alle tue gonne. Di sapiente fanciulla troppo stretto il passaggio per il tuo corpo allegro. Dietro al tuo banco degli usurai precisi e assurdi, i poveri con la grinta sapiente nella loro inestetica differenza. Dietro ogni rimpianto di bellezza, dietro la porta che non s'apre, dietro alla fontana secca al sole, lanterne verdi e cupe e ingiallite portano sino al monte della pietà, sino al castello miracolosamente scolpito per i cattivi preti. I miei vent'anni mi minacciano, Esterina, con il loro verde disastro, con la loro luce viola e verde chiara soffusa d'agonie, luci in nuvoli disfatti e incatenati, incatenati dalla limpidità di Dio, scoloriscono l'aria che non ha limite, il piccolo ruscello, la grave spaccatura, ma tu non sei di quelli che si incantano al paesaggio. Torna ai tuoi canti del cavallo che sapeva lunga la storia della razza della sua bisnonna. Esterina, i tuoi vent'anni ti misurano cavità orali ed auricolari, Esterina. La tua bocca pendente dimostra che tu sei fra le più stanche ragazze che servono al di dietro dei banchi, e tu la zappa ti sei portata al collo, si infigge di mezze lune, te cerco su di un altro binario, io te cerco nella campagna deserta, il verde soppruso del tuo miracolo è per me la prima linea incandescente del mio cuore, la mia schiena infallibile, la morta collina deserto ingigantito dalla tua partenza, la luce che mi folgora troppo dura l'occhio asciutto, il pensiero di te mi inveiva, il pensiero duro di te reale mi smorzava la gioia di te irreale, più vera della tua vera vissuta visione, più lucida della tua vivida dimostrazione, più lucida della tua lucida vita vera, che io non vedo della solitudine, le trombe delle scale, il tetro gingillo della carità, il tubercolotico ansimare, la corta freccia che avvelena.